Allora, vi state preparando anche voi per insomma portare l'attenzione oggi nella città di Teramo a quelli che sono stati i fatti del 15 ottobre del 2011 e anche agli eventi processuali che hanno visto insomma in Teramo un grosso accanimento. Se ti va insomma di raccontarci innanzitutto come questa mattina che cosa farete? Ma sì, noi questa mattina anche siamo d'accordo con altre realtà, l'obiettivo era proprio quello di organizzare presidi in più parti d'Italia. Saremo anche noi qui un piccolo presidio di fronte alla prefettura di Teramo, metteremo una stazione, faremo un volantinaggio nel quale punteremo appunto a ribadire la nostra solidarietà e vicinanza a tutti gli indagati per i fatti del 15 ottobre. In un certo senso proveremo a capovolgere l'accusa di falsazione e saccheggio, nel senso che nel nostro volantino, nel nostro comunicato che poi eventualmente vi faremo avere, puntiamo il dito sul fatto che a devastare, a saccheggiare le nostre vite, i nostri territori, il nostro presente, il nostro futuro è il capitalismo e non chi invece si ribella a questo ordine sociale, economico e politico ingiusto che oggi al tempo di una crisi così forte e sistemica mostra sempre di più il suo aspetto vero, che è anche il più tetro, per così dire. Beh, mi sembra insomma che già i temi che avevano portato poi migliaia di persone in piazza il 15 ottobre del 2011 in qualche maniera erano appunto forti proprio in questo senso che hai detto tu. E farete quindi un presidio davanti al tribunale, davanti alla prefettura, scusami, davanti alla prefettura, poi il prossimo 11 aprile ci sarà invece un presidio specifico per Davide dove ci sarà il tribunale del riesame. Giusto? Sì, esattamente. Giovedì prossimo, giovedì 11 quindi aprile, a partire dalle 9, abbiamo organizzato un presidio di fronte al Tribunale di Roma in sezione Clodio, in occasione della pronuncia del Tribunale Sociale sulla vicenda di Davide. Insomma, come tutti voi saprete, Davide è agli arresti domiciliari, cioè in custodia cautelare da un anno, in occasione di aprile sarà un anno. Da qualche mese, dal 18 febbraio, si trova invece recluso in carcere, tra l'altro ha subito tre spostamenti. Quindi giovedì prossimo c'è questa udienza del tribunale del riesame, nel quale c'è la possibilità che lui, non dico venga messo rimesso in libertà, ma perlomeno torni ai domiciliari. E quindi abbiamo organizzato questo presidio in continuità sia con quanto fatto oggi che con quanto fatto a Teramo nella manifestazione del 9 febbraio. L'obiettivo è sempre quello, cercare di non lasciare gli arrestati, i condannati, gli inquisiti per i fatti del 15 ottobre, e poi cercare di allargare un po' il discorso a tutte le persone, non lasciare, dicevo, gli inquisiti da soli, intanto di commettere gli errori che sono stati commessi in passato. Ed è chiaro che in uno scenario così per certi versi drammatico, il caso di Davide è in un certo senso esemplare, perché comunque su di lui l'accanimento è stato, se possibile, ancora più forte, e la pena che gli stanno facendo scontare è ancora più esemplare rispetto agli altri. Ecco, insomma, Davide sta passando come capro espiatorio in un certo senso. Beh, ricordiamo che ci sono state già 6 condanne per i fatti del 15 ottobre, sempre per reato di devastazione e saccheggio, con pene di 6 anni, tra cui appunto 5 compagni di Teramo. Quindi oggettivamente, insomma, l'accanimento nei confronti del vostro collettivo antifascista di Teramo è stata grossa. Sì, questo sicuramente. Poi, ecco, anche analizzando questo accanimento di cui parlavi tu, probabilmente una strategia precisa quella di colpire oltre che gruppi comunque attivi anche nelle periferie, per certo, cercare appunto di isolare chi viene colpito dalla repressione. E quello che anche a causa di nostre colpe, diciamo, era avvenuto nei primi mesi, nel senso che noi, anche assecondando quella che era stata la volontà espressaci dai 5 ragazzi coinvolti, avevamo deciso di tenere un profilo basso e quindi non entrare tanto in contatto con altri movimenti e di far cercare di ottenere la solidarietà, la complicità, che invece da quando abbiamo investito la marcia abbiamo ottenuto in maniera forte e costante. Beh, diciamo che insomma, come radio possiamo testimoniare che più solidarietà, più il movimento si muove, più si rivendicano insomma le giornate di lotta, e quindi si va contro quelle che poi è l'ondata repressiva, che puntualmente ci sta quando ci stanno le giornate di lotta, sicuramente aiuta tantissimo anche tutto ciò, quello che è il lato processuale, e quindi anche gli imputati. Insomma, avete avuto la partecipazione grossa che c'è stata anche al corteo di Teramo, ha in qualche maniera risvegliato sicuramente una solidarietà di tutta le compagne e compagni d'Italia, che ha smosso, comunque ha riportato alla luce il fatto di doversi occupare di quello che è stata la giornata del 15 ottobre, e quindi di tutta la fase processuale. Il fatto che ci sia anche un preside oggi a Genova, insomma, è sicuramente molto importante. E oggi voi anche siete di nuovo in piazza a Roma, il presidio è molto partecipato, quindi insomma qualcosa si muove. Esatto, l'importante è questo, soprattutto dare continuità, e in questo senso giornate come quella di oggi secondo me sono fondamentali, perché anche dare più risposte a livello territoriale è importantissimo, insomma, far capire che anche noi abbiamo una sorta di rete, che quando vogliamo siamo in grado di tenerci in contatto e di organizzare cose condivise. Quindi ripeto, la risposta di oggi secondo noi è molto importante. Poi, come dicevi giustamente tu, oltre a Teramo e a Roma ci sarà anche Genova, credo ci sarà anche qualcosina a Firenze. Comunque abbiamo visto altre realtà che ci hanno assicurato comunque con striscioni, attacchinaggi e cose del genere. In un certo senso parteciperanno anche loro a questa giornata di mobilitazione, quindi è chiaro che siamo all'inizio, però noi siamo soddisfatti del percorso che sta iniziando e che abbiamo intrapreso. Eh sì, sicuramente l'attenzione deve rimanere alta, anche perché poi le fasi processuali, insomma, poi anche come vengono in qualche maniera decise le persone, gli imputati, non è mai casuale il fatto di isolare, di prendere le città più piccole, persone molte volte sole, singoli, che non hanno una rete, che casomai non sono parte di un movimento, di un collettivo, eccetera. È stata proprio tutta la fase processuale che ha caratterizzato tutto il processo di Genova, che ha portato poi alla condanna di 10 persone singole che in qualche maniera non hanno avuto una rete di solidarietà e collettiva forte dietro. Sicuramente dopo la condanna dello scorso anno, già il fatto di vedere dopo tanti anni delle compagne, un compagno e una compagna in carcere, ha sicuramente smosso qualcosa, quindi insomma ci auspichiamo che al di là di quelli che poi sono state insomma le conseguenze, diciamo così, politiche del 15 ottobre del 2011, poi sulla repressione, sulle forme di solidarietà ci possono essere manifestazioni un po' tutta Italia e abbastanza corpose. Io ti ringrazio e ci sentiamo nei prossimi giorni sicuramente per andare a continuare a parlare di Davide e di quello che sarà l'appuntamento del prossimo giovedì. Va bene, va benissimo, perfetto.